Questo piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, quindi che si occupa di mitigazione e adattamento insieme, è un po' la sintesi di tutti gli aspetti e di tutte le strategie ambientali dell'amministrazione. Quindi mette a sintesi tutto quello che abbiamo deciso, i piani e i progetti che abbiamo costruito durante questo mandato e il mandato precedente e che stiamo finalizzando, e ne mostra gli effetti dal punto di vista del percorso della città verso la transizione ecologica. Per questo è davvero molto importante. Spesso ci hanno detto che non abbiamo una roadmap, che non abbiamo un percorso stabilito verso la neutralità climatica della città. In realtà questo piano contiene il percorso. È il risultato dell'adesione del Comune di Bologna al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Abbiamo aderito nel 2019, ci eravamo impegnati a sviluppare il piano entro l'inizio di aprile 2021 e così è stato sostanzialmente. Il piano parte da un aggiornamento di quelle che erano le politiche già intraprese con i precedenti piani ambientali. Il piano parte ovviamente verificando se questi obiettivi sono stati effettivamente raggiunti o no. Noi sappiamo che sono stati raggiunti, abbiamo sviluppato un inventario delle emissioni che ci dice che nel 2018 effettivamente la città aveva già tagliato le emissioni di oltre il 20%, e questo è il punto base da cui si riparte per programmare un percorso verso la neutralità climatica, un percorso che l'Unione Europea, la nostra regione ci propongono con un traguardo 2050 e che in questo piano invece immaginiamo possibile al 2040. Immaginiamo, dico, perché di fatto non è un percorso soltanto dell'amministrazione di Bologna, ma è un percorso di tutta la città a cui devono concorrere i cittadini, ma anche tutte le forze sociali ed economiche tutte, credo, hanno a cuore il futuro della nostra città, non soltanto dal punto di vista della sua vivacità, ricchezza e prosperità, ma anche dal punto di vista ambientale. Ormai abbiamo tutti sotto gli occhi la realtà, l'evidenza, il fatto che questi aspetti sono tutti strettamente collegati fra di loro. Uno strumento che considera quindi non solo l'apporto pubblico, l'apporto della progettualità del comune, ma tutti gli apporti, come dicevo, possibili, pubblici e privati, sulla città, in alcuni, diciamo, macro ambiti, macro settori di intervento che sono importanti o per la mitigazione, quindi per ridurre la nostra produzione di CO2, per dirla molto semplicemente, o per l'adattamento, quindi per migliorare la risposta della città ai cambiamenti climatici. I macro ambiti quindi sono, rispetto ai cambiamenti climatici, le ondate di calore nella città, gli eventi estremi di pioggia e il dissesto idrogeologico, la carenza e la qualità di acqua. Rispetto invece al tema dell'adattamento, la rigenerazione degli edifici, edifici civili, quindi edifici di abitazione, pubblici e privati principalmente, che è uno dei settori che finora ha contribuito meno all'abbattimento delle emissioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la rigenerazione naturalmente anche degli edifici pubblici e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, che è un settore che invece ha fatto grandi progressi in questi anni, ma che bisogna continuare a migliorare, la transizione energetica nel settore industriale e infine anche la decarbonizzazione dei trasporti. Non vi sfuggirà che in questi giorni è in discussione la delibera sul tram. Ebbene, il tram da solo ha un contributo, dà un contributo importantissimo a questo piano, perché la linea rossa sarà in grado di ridurre le emissioni di 50.000 tonnellate di CO2 all'anno. Ecco, la cosa interessante di questo piano è che c'è anche una quantificazione, non solo di quanto possiamo ridurre le emissioni, ma anche di quali investimenti servono per fare questo. Il piano individua, dicevo, dei macro ambiti di intervento, individua anche delle azioni chiave, quindi azioni molto significative sulle quali dobbiamo essere decisi e continuare nella strada intrapresa, perché sono appunto decisive per la transizione ecologica, e sono la riqualificazione dell'edilizia, partendo dall'edilizia residenziale pubblica, perché il pubblico deve usare tutte le sue leve anche per promuovere un cambiamento di cultura e di comportamenti nella città, la costituzione di comunità energetiche. Su questo stiamo partecipando a un progetto che si chiama GECO, che coinvolge la zona Roveri e il Pilastro, altro, e che è un progetto europeo che sperimenta appunto fra i primi, diciamo, in Italia il tema delle comunità energetiche. La linea rossa del tram, l'ho già commentato, è uno dei nostri progetti chiave da questo punto di vista. La programmazione di incremento delle alberature, che sta marciando ad un ritmo di oltre 1000 nuove alberature pubbliche censite all'anno, ovviamente questo è un numero che riguarda soltanto gli alberi pubblici singolarmente censiti, non tiene conto di interventi di forestazione urbana, ma non tiene conto neppure di quello che potrebbe fare il privato. Gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico, come stiamo facendo sul canale Navile, nei rii collinari, a cui in questi anni abbiamo dedicato molte energie, e anche il recupero delle acque dell'Idar, che è un tema molto specifico e importante, oggetto di una accordale e che ci promette di poter immettere ancora più acqua appunto nella rete urbana dei canali.